Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, ben ritrovati soprattutto mentre sui giornali leggiamo di tutte le novità ancora una volta che riguardano la tassazione sulla casa, l'IMU in tre rate, la riforma del catasto e tanto altro ancora, temi sui quali non mancheremo di offrirvi tutti i dettagli nelle prossime puntate di Salva Danaio. Anche oggi torniamo a dedicarci alla casa, ma con un tema un po' più leggero rispetto alle questioni di carattere fiscale. Perché si apre oggi a Milano il Salone Internazionale del Mobile. Nel polo fieristico Ropero, una kermesse, una vetrina molto importante per le imprese del legno arredo, del design, settore che la crisi ha messo a dura prova anche nel nostro paese. Allora, in che modo vogliamo occuparci noi oggi dell'argomento? Progettare e arredare la propria casa non è un'impresa da poco, è impegnativa da molti punti di vista, questo non si può negare ed è un impegno anche per il conto in banca. Ma ci chiediamo, è davvero impossibile appassionarsi di arredamento e design e cercare qualità e originalità con un budget tutto sommato contenuto? Oggi noi a Salva Danaio cerchiamo di scoprire se è possibile vivere in una casa bella, arredata con gusto ed originalità, personalizzata, senza che questo diventi per forza un lusso che nell'immaginario collettivo oppure nell'immaginario di molti comunque solo in pochi possono concedersi. Allora, intanto noi oggi vi chiediamo di essere creativi e propositivi, raccontateci la vostra esperienza all'800240024, visto che sono molte le idee, le proposte di soluzioni utili e accessibili per progettare e realizzare gli ambienti di un'abitazione secondo i propri desideri senza spendere troppo. Raccontateci come avete fatto voi, come vi siete organizzati a casa vostra, oppure ci sono degli oggetti, del desiderio nell'arredamento della vostra casa che ricercate da tanto tempo e che magari immaginate di non potervi permettere perché insomma sono anche magari pezzi che ritenete possano costare un po' troppo e non riescano in qualche maniera rientrare nel budget che avete immaginato. Siete riusciti a togliervi qualche sfizio, a mettere qualche cosa bella a casa vostra? Questa mattina tra l'altro osserveremo anche come si sta muovendo questo mercato e abbiamo detto, noi lo facciamo in occasione anche dell'edizione 2012 del Salone del Mobile che si svolge a Milano fino al 22 aprile e sono molte peraltro le trasmissioni di Radio 24 che si dedicheranno a questo argomento, ma noi ci focalizziamo, proprio lo ribadisco, perché vogliamo molti i vostri contributi questa mattina su arredare casa a quale prezzo. 800240024 il numero verde per proporci i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure se volete andate anche a curiosare su Facebook, dove il nostro profilo è all'indirizzo naturalmente al nome Salva Danaio trattino Radio 24. Chi c'è con noi questa mattina? Ringrazio e saluto Alberto Spinelli, amministratore delegato di Poliform, una delle più importanti realtà e significative realtà appunto nel nostro paese nel settore dell'arredamento, ma anzi direi proprio un nome assolutamente internazionale. Dottor Spinelli, buongiorno e grazie di essere con noi questa mattina. Buongiorno. È al salone lei peraltro? Sono nel nostro stand Poliform. Quest'oggi non era già aperto al pubblico, se non sbaglio, vero il salone? No, oggi non è aperto al pubblico. Mm. L'apertura al pubblico è sabato e domenica. Benissimo, per adesso quindi oggi è solo per gli addetti al settore. Addetti al settore, poi ci racconterà che aria tira, dottor Spinelli, perché naturalmente è un settore che porta il nome dell'Italia in giro per tutto il mondo e quindi ci interessa che naturalmente goda della miglior salute possibile. Andrea Cinosi, presidente di AssoloCost, buongiorno e bentornato anche a lei. Grazie e buongiorno a tutti. AssoloCost, noi l'abbiamo interpellata molto spesso nella nostra trasmissione in passato, non per parlare di arredamento, qualche volta per parlare per esempio di finanza, di assicurazioni o di altri settori, perché questa organizzazione è l'associazione delle imprese low cost e di qualità. In realtà parliamo di una vera e propria filosofia produttiva che si basa su un modo di produrre e commercializzare moderno e più efficiente. Questa è la presentazione naturalmente che leggo dal sito internet e poi ci racconterà Cinosi come si applica questa filosofia anche al settore dell'arredamento delle nostre abitazioni. Ho raccontato ai nostri ascoltatori naturalmente come possono intervenire in diretta raccontandoci la loro esperienza personale. Intanto, prima di partire, andiamo a vedere la borsa come si comporta questa mattina. Stavo intanto distraendomi perché leggevo già qualche primo messaggio di qualche ascoltatore che ci sta scrivendo sull'argomento. Un'ascoltatrice mi dice: sia che si parli di economia che di arredamento, lei ci rende tutto interessante. Maria Teresa, sa com'è? Ho appena terminato di sistemare casa mia e potrei raccontare una marea di cose su questo argomento, invece non voglio peccare di conflitto di interessi, voglio essere il più neutrale possibile quest'oggi e sentire voi invece come la pensate su questo argomento. C'è poco da pensare, perché immagino che ognuno di noi sia interessato a rendere la propria casa la più bella possibile, arredata con i comfort migliori possibili, e però qualche volta andando a fare anche qualche preventivo. Io ci sono passata negli ultimi mesi, qualche volta sono dolori, perché chi non vorrebbe il meglio a casa propria dal punto di vista dell'arredamento e della funzionalità? Qualche volta sono dolori, ma è anche vero che qualche volta magari si preferisce spendere qualcosa di più pur di avere il meglio a casa nostra, e sicuramente da questo punto di vista l'industria italiana racconta il meglio che si abbia a disposizione. La borsa, dicevo, prima di partire con questo argomento, la borsa oggi è positiva, è molto positiva, finalmente raccontiamo anche qualcosa di bello da questo punto di vista, poche turbolenze, speriamo che nel pomeriggio i mercati finanziari non cambino idea. Milano più 2,44%, regina d'Europa in questo momento sul FTSE MIB, con il volo che stanno spiccando letteralmente le banche. La Popolare dell'Emilia Romagna segna adesso più 7,5%, più 7. Banco Popolare più 5,66, Popolare di Milano più 5,29, più 5 Monte dei Paschi, più 5 UbiBanca, più 4,5 Intesa San Paolo e Mediobanca, più 4 Unicredit, più 3,85% Mediaset. Le altre piazze europee sono pure positive, ma distanti da Milano: più 1,40 Parigi, più 1 Francoforte, più 0,7 Londra. La Spagna anche andava bene, guadagnava circa un punto e mezzo. Oggi in Spagna c'è stata un'importante asta di titoli di Stato che è andata bene. Madrid ha collocato bond a 12-18 mesi per oltre 3 miliardi, ma i rendimenti sono tutti quanti saliti. Direi che però la borsa oggi la lasciamo abbastanza rapidamente, abbiamo perso già troppo tempo, andiamo invece al tema di oggi. Oggi parliamo di arredamento della nostra casa. Avete riarredato la vostra abitazione di recente? Quanto avete speso? Che cosa avete scelto? Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore. Non abbiamo una scheda quest'oggi, però abbiamo voluto cominciare in maniera allegra la nostra trasmissione, perché effettivamente il tema è bello, anche se in realtà parliamo di uno stato di salute di un'industria che ha vissuto le sue difficoltà, dottor Spinelli, negli ultimi tempi, e in un certo qual modo, se non ci fossero stati anche gli incentivi fiscali legati ai progetti di ristrutturazione e riqualificazione delle nostre case, forse la sofferenza sarebbe stata anche maggiore. Ma in ogni caso le chiedo un po' di raccontarci qual è il clima che si respira oggi a questo salone, anche se siamo proprio alle battute iniziali. In queste ore incontri solo fra gli operatori del settore, poi avremo nel fine settimana l'apertura al pubblico. Ci racconta lo stato di salute del settore in relazione anche alle esigenze delle famiglie e ai budget delle famiglie che sono sempre più striminziti, dottor Spinelli? Ma guardi, il settore vedo che sta reagendo molto bene. E già da queste prime ore di apertura del salone c'è una notevole affluenza di pubblico straniero, soprattutto i nostri pubblico rivenditori, gli addetti del settore da tutto il mondo, da indiani, cinesi, coreani, veramente una grossa affluenza. I rivenditori italiani li vedo anche loro molto positivi, cioè gente che hanno voglia di investire, perché la gente vuole riprendersi un po' da questa situazione, per cui sono molto positivo. Benissimo, allora intanto sto leggendo anche le riflessioni che stanno facendo i nostri ascoltatori. Il primo segreto che un ascoltatore ci indica è seguire un progettino, fare un progetto convincente, poi poca fretta, quindi magari avere molto tempo a disposizione per farsi fare molti preventivi. Ma andrei subito ad Andrea Cinosi, poi leggerò anche gli altri messaggi degli ascoltatori, presidente di Assolocoste. Peraltro un tema interessante, il suo forse anche un contributo interessante, proprio nelle giornate in cui abbiamo commentato a lungo la decisione del colosso svedese IKEA di spostare alcune produzioni dall'Asia all'Italia, la cosiddetta delocalizzazione di ritorno. Quando si parla di low cost associato al settore del arredo, dottor Cinosi, di che cosa parliamo? Ma stiamo parlando anzitutto di una serie di innovazioni e di ottimizzazioni che consentono di ridurre per l'azienda i costi e quindi di generare dei prezzi finali inferiori. Si tratta di economie di scala, ad esempio, di avere dei punti vendita molto ampi in modo da fornire delle esperienze d'acquisto piacevoli, ma anche di garantire dei volumi tali che consentano poi di trattare con i fornitori dei prezzi vantaggiosi, perché in questo caso la distribuzione assicura degli ordini molto, molto importanti al fornitore. Quindi si tratta di una serie di ottimizzazioni molto trasparenti e che diventa importante attuare, perché diciamo non tolgono valore al bene venduto, ma generano vantaggio per il cliente. Se, intanto i nostri ascoltatori, oltre al fatto che ci raccontano che tipo di direzione ha preso l'arredamento della propria abitazione, quindi magari a che tipo di fornitore si sono rivolti, se l'azienda, la grande insegna, la grande marca, piuttosto che produttori locali, c'è anche chi ci racconta addirittura delle esperienze fai da te, poi magari li ascolteremo. Altri che invece al 349-238-6666 ci stanno dando addirittura dei nomi e dei cognomi di aziende alle quali rivolgerci bene, e un altro che ci ascolta, che ci ha scritto Ale da Reggio Emilia, che non so se si tratti di Alessandro o Alessandra, forse un Alessandro, visto che ci racconta che ha venduto la sua moto per la sua cucina nuova, ha speso 24.000 euro, ma ha voluto assolutamente il meglio, e comunque Ale credo che abbia anche una bella abitazione. A queste cifre ci si arriva anche abbastanza rapidamente, però credo che davvero lei si sia regalato il meglio. Salvadanaio oggi, prendendo a pretesto l'apertura del Salone Internazionale del Mobile nel polo fieristico Ropero, una vetrina molto importante per le imprese del legno arredo italiane, è voluta andare a caccia anche delle vostre iniziative all'interno della vostra abitazione, dei vostri gusti. Allora, avete arredato di recente la vostra casa, a che prezzo lo avete fatto, che cosa avete scelto? Raccontatecelo all'800240024. Noi questa mattina stiamo commentando il budget in relazione alla qualità naturalmente del vostro arredamento con Alberto Spinelli, amministratore delegato di Poli, e Andrea Cinosi, presidente di Assolocoste. Stanno arrivando davvero tanti messaggi da parte degli ascoltatori. Volevo rifare però una domanda ad Alberto Spinelli, che peraltro è con lo stand di questa azienda proprio al Salone del Mobile. Quali sono, dottor Spinelli, le soluzioni d'arredo più ricercate da parte delle famiglie italiane? Che tipo di ricerca state facendo nella vostra azienda per soddisfare, dicevo prima, le esigenze di budget che, si sa bene, sono sempre più striminzite? Che gusti hanno le famiglie italiane? Noi stiamo notando che le famiglie italiane hanno avendo un gusto molto più raffinato, però molto più attento alla qualità, soprattutto alla qualità dei materiali, da come viene prodotto, qualità dei materiali, il materiale intrinseco nel senso le vernici, se sono confacenti a tutte le normative, in materiali ecologici, tutto questo vedo che loro sono molto molto attenti, e soprattutto uno stile molto sobrio e razionale, e questo veramente nei giovani lo sto notando. Quindi soprattutto nei giovani, dice lei. Giovani. E come si organizzano, visto che il budget si restringe sempre di più, ma naturalmente ognuno ha il diritto di arredare al meglio la propria abitazione? Voi come avete cercato di rispondere anche alla crisi che ci ha investito negli ultimi anni e che probabilmente ha fatto rinviare anche queste scelte a molte famiglie? Però tutto sommato anche chi è poi più in difficoltà, naturalmente, ha tutti il diritto di poter insomma sistemare al meglio la propria casa con mobili di qualità, anche se a prezzo più contenuto. ma ripeto, nell'attenzione che noi poniamo nei materiali, cercare di usare un materiale appropriato per un determinato prodotto, e quindi con una grande serialità, noi siamo una grossa azienda, quindi puntando tanto sulla quantità, però con un grosso rispetto per la qualità, per cui riusciamo a proporre un prodotto che abbia dei prezzi abbastanza contenuti. Poi i nostri principalmente sono dei sistemi, sia nella zona giorno che nella zona notte, per cui uno può avere all'interno di questa fascia sistemi da un prezzo base fino a una fascia di prodotto più alto. Che soddisfi comunque tutte le esigenze relative. Certo. Allora, adesso sentirò anche Cinosi sul contesto nazionale nel quale ci troviamo ad affrontare anche queste spese, perché ho letto uno studio di Asso Low Cost che chiaramente ha notato come per gli acquisti impegnativi la propensione di recente sia più scarsa, necessariamente più che la propensione, insomma, più redditi che sono più scarsi, per cui beni durevoli chiaramente vengono rimandati come acquisti, e si va dall'auto al frigorifero e quindi magari anche al mobile nuovo dove mettere e dove appoggiare la televisione, oppure l'armadio nuovo e la camera da letto. Però insomma, vediamo se questo quadro può cambiare in futuro o se comunque ci sono anche delle occasioni che possono in ogni caso permettere alle famiglie che in questo momento devono magari riprogettare la propria abitazione di poterlo fare appunto con serenità economica. Vorrei sentire anche qualche ascoltatore, cominciando con Sandro dalla provincia di Bologna, che è un operatore del settore. Sandro, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah, buongiorno a lei, salve. Niente, innanzitutto saluto anche il dottor Spinelli, che tempo fa avevo conosciuto in una fiera appunto a Milano, quando ancora non era RO. Vabbè, devo dire che comunque i prodotti sono veramente di nicchia, ottimi prodotti, Polyform, diciamo che una grande presentazione. Non mi faccia fare troppa pubblicità all'azienda. Va bene, comunque niente, io sono un rivenditore, lavoro molto su catalogo, cioè lavoro con dei fotografici AutoCAD, consiglio appunto i clienti nella scelta dei materiali, lavoro con aziende italiane e praticamente insomma il mio lavoro si svolge come accompagnatore, chiamiamolo così, nella scelta appunto dell'arredamento dei miei clienti. Insomma. Sandro, quando i clienti arrivano che cosa le dicono? La prima cosa, io ho questo budget a disposizione, oltre questo non posso andare, anche perché guardi, l'ho sperimentato sulla mia pelle, sono partita da un budget e pur cercando di arginare al massimo tutte le derive possibili, di contenermi sulle scelte di cose belle e quant'altro, perché poi chiaramente gli occhi vanno lì, non siamo mica degli sciocchi, cioè non ci si sta mai con il budget iniziale, quindi che cosa le chiedono le famiglie quando arrivano da lei? Ti prego non farmi uscire fuori da questo preventivo, oppure è difficile insomma tenerlo sotto controllo? No, è molto difficile tenerlo sotto controllo, nel senso che adesso purtroppo ci sono delle realtà, purtroppo no, ci sono delle realtà alle quali non faccio nomi, che comunque tutti conosciamo, che comunque trattano prodotti non italiani di importazione, che comunque è difficile relazionare appunto il prezzo con questa tipologia di mercato. Quello che mi chiedono, ho detto proprio francamente, Sandro, voglio risparmiare, dammi il meglio almeno al minor costo possibile. Quindi diciamo che insomma la scelta è ampia, nel senso che comunque abbiamo ottimi prodotti made in Italy. Io mi ricordo tantissimi anni fa, quando veniva la nostra concorrenza con le macchinette fotografiche appunto a fotografare i particolari nelle fiere, e adesso purtroppo questi particolari con queste macchinette fotografiche che hanno copiato il prodotto made in Italy, purtroppo adesso è la nostra concorrenza e facciamo fatica. Diciamo che comunque quello che ci aiuta veramente nel nostro settore, il dottor Spinelli può confermarlo appunto, è la qualità, i materiali tossici, la piccola differenza insomma del materiale, certo, che tocchiamo con mano tutti i giorni insomma. Però grazie comunque... grazie Sandro per la sua testimonianza, dottor Cinelli. Ho fatto Cinosi Spinelli, li ho messi insieme, Cinosi, volevo venire da lei, presidente di Asso Low Cost, mi ha fatto un po' sorridere quello che ci raccontava Sandro, che raccontava appunto come, adesso non so se si riferisse a cinesi o che cos'altro, appunto che fotografavano in passato gli oggetti appunto di design, probabilmente comunque di arredamento, per poi replicarli un po' come fanno davanti ai negozi di scarpe, no? E queste pratiche credo che ancora siano abbastanza diffuse, e il tema però è replicare o meno questi prodotti tipici del Made in Italy numeri, perché per quanto si possano replicare al meglio, replicarli identicamente rimane comunque difficile, ma in ogni caso è chiaro che la concorrenza che hanno prodotto è stata abbastanza importante per il nostro settore. Ci racconta in ogni caso anche quello che dice il vostro osservatorio sugli atteggiamenti delle famiglie italiane verso gli acquisti impegnativi, come per esempio l'organizzazione dell'arredamento può rappresentare? Sì, ecco, da questo punto di vista diciamo una ricerca fatta con Eurisco testimonia come il livello di propensione agli acquisti sia al livello più basso toccato dal 2008. E questo da cosa dipende? Questo dipende dal fatto che abbiamo avuto un aumento di prezzi in voci di spesa difficilmente contraibili, pensiamo ad esempio ai costi dell'energia, abbiamo un'imposizione fiscale per causa di forza maggiore per la nota crisi europea che è ai massimi degli ultimi decenni. C'è un timore per la sicurezza dei posti di lavoro oggi, perché sia gli interventi sulla flessibilità che la situazione economica non generano più in tutti noi la sicurezza che c'era prima, e inoltre questo ha generato una caduta della propensione al risparmio, nel senso che le famiglie del 2011 in particolare hanno dovuto intaccare per far fronte alle proprie esigenze di spesa quelli che erano i loro risparmi. Dunque, che fanno le famiglie di fronte a questa situazione? Non essendo tranquilli, dovendo affrontare un acquisto importante come è l'arredamento della casa, a meno che non sono nella necessità, una percentuale tende a rimandare per avere maggior sicurezza di poter allocare quella cifra, e questo è umanamente comprensibile. Ci auguriamo che la situazione passi presto, anche se su questo le devo dire che purtroppo temo che forse non si possa più parlare di crisi, ma si debba parlare di una nuova normalità a cui ci dovremo abituare, perché effettivamente sarà molto difficile che raggiungeremo i livelli economici di qualche anno fa. Una situazione quasi di crisi strutturale, insomma, speriamo di non doverla necessariamente definire così prossimamente, ma effettivamente sento molte campane che la pensano come lei, dottor Cinosi. E però giudicare dal movimento che al Salone del Mobile si nota questa mattina, e che probabilmente anche giudicare dalle prenotazioni, dal numero enorme degli espositori, forse sono delle circostanze delle quali potremmo evitare anche di parlare successivamente nei prossimi mesi, queste circostanze appunto di difficoltà. Adesso ritorno da Alberto Spinelli, però sentirei altri ascoltatori, anzi un'ascoltatrice, Nicoletta dalla provincia di Firenze, alle prese invece con questioni di illuminazione della propria abitazione. Nicoletta. Sì, buongiorno. Ci racconti? Sente? Sì, la sentiamo. Sì, io sono andata anche in giro per cercare delle lampade per la casa, ma come dice anche il signore, quelle di imitazione non sono proprio come quelle originali. Ho investito su una lampada di Murano, ho detto mi piaceva tanto, ho detto faccio una follia e la compro. Le altre guardate in effetti assomigliavano a quella, però quando poi l'occhio è cascato. Nicoletta, facciamo gli affari suoi, quanto le è costata questa follia? 1200 euro, una lampada da vistosi. Però è un bell'oggetto. La tengo come una reliquia. Ecco, comunque rimarrà lì a casa sua per molto tempo, sicuramente è una cifra che ammortizza nel tempo, si è tolta lo sfizio, ha fatto un po' di sacrificio, ha fatto bene anche all'industria italiana. Ma senta, le repliche che trovava in giro quanto costavano in meno? Più della metà. Quindi a questo punto abbiamo deciso, con pianto e un lamento, di prenderla via. Questo risparmio poi non c'era, erano comunque molto più bruttine, simili, e allora ho detto made in Italy, scegliamo, via. Va bene, Nicoletta, grazie, ha fatto bene, guardi. Io pure ho aspettato un po', però le due o tre lampade che ho preso a casa mia sono quelle che volevo e sono contenta. Dottor Spinelli, ma quando sente queste esperienze, che tipo di riflessioni le vengono? Guardi, ho sentito prima del dottor Cinosi che diceva che i consumatori sono molto più attenti e magari diluiscono gli acquisti. Questo lo posso confermare, perché vedo che veramente sono attenti alla qualità e magari cominciano a comprare le cose principali, cioè partono dalla cucina, la camera da letto, questi sono le basilari. Poi magari aspettano per il terzo acquisto del salotto, il divano o la libreria, cioè anche la libreria è cambiato completamente rispetto agli anni scorsi, adesso con con tutti i nuovi impianti e non c'è più bisogno di grandi spazi, di grandi volumi, per cui tutto si è ridotto, però ripeto, fanno un acquisto molto più ponderato. E questa è stata infatti l'esperienza che ci ha raccontato la nostra ascoltatrice. Privilegiava l'oggetto di design di qualità italiana, aspettato un po', lo ha comprato e ha deciso appunto di non scendere a compromessi in questo ambito. Esattamente, questo è il modo, l'approccio all'acquisto è un approccio veramente dove valutano tutto, partono da un progetto globale, però dopo frazionano veramente in base alle necessità. Volevo girare ad Alberto Spinelli di Poliform un'altra riflessione di un altro ascoltatore per sentire come la pensa. Adesso la ritrovo, nel frattempo me la son persa. Con 6.000 euro ho arredato tutta la casa con 2 bagni e 5 stanze da Ikea, lo dico tranquillamente. Ho 5 figli, senza Ikea famiglie come la mia non ce la fanno. Dottor Spinelli. Devo dire che l'ascoltatore è stato bravo, arredare tutto con 6.000 euro con Ikea si può fare. È chiaro che le aziende come le nostre si rivolgono a un mercato di un livello superiore, però ripeto, uno può, non dico arredare tutto con questi costi, però con i sistemi che noi proponiamo riusciamo ad offrire anche dei prodotti basic, cioè sempre di grande qualità, ma con una possibilità di arredare dei departamenti con delle ottime finiture. Intanto qualcun altro, utilizzando sempre l'esempio Ikea, ci racconta, anche se non ne siamo fan, quindi se non ne siamo, come dire, sostenitori, un ascoltatore ci racconta: abbiamo dovuto comunque rivolgerci a quel marchio perché siamo in 4, già per poter comprare casa abbiamo usato ogni euro prestato da banca e parenti, l'arredamento è stato alla fine un optional, il vecchio proprietario ci ha lasciato la cucina di 30 anni. Andiamo ad altri ascoltatori. Carmen da Cuneo. Carmen, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti. Allora, innanzitutto saluto il signor Spinelli e saluto lei, signora Rosciani, perché lei non lo sa, ma mi è stata utile in 1001 occasioni. Ah, meno male. Sì, tante volte ho solo mandato messaggi, ho chiamato, ho avuto la fortuna di risolvere un problema grazie a voi. Ah, comunque, benissimo. Di microeconomia. Comunque volevo dire, la mia casa, la casa mia e di mio marito è nostra, io ci abito dal 1994. I miei piccoli consigli sono di fare le cose con calma, non ostinarsi a comprare tutto subito. Mm-hmm. Secondo, a parte che la mia casa è un work in progress, proprio per questo motivo, ed è strapiena di libri, CD, DVD, eccetera, quindi però è abbastanza grande, l'ho ereditata dai nonni. Comunque io con calma dal 94, sì. Volevo solo dire, mi riferisco a quello che alla signora prima delle lampade che ha parlato, che ho sentito per il cellulare, e è una cosa che ha detto lei, adesso non mi ricordo, l'oggetto del desiderio. Allora, prima di tutto dico solo più queste due cose e poi smetto. Per me l'importanza delle affiche, non dei quadri, delle affiche alle pareti che possono cambiare una stanza tantissimo, se belle e comprate con calma. Secondo luogo, il mio oggetto di desiderio, non so se lo posso dire per radio, sono anche le lampade. Proviamo, perché no? Io mi sono acquistata, però con il fatto che è eterna, una Berenice, Rizzotomeda, una Castiglioni. Bene, non li conosco tutti questi, no, ecco. Però insomma lei, l'importante, ci ha detto Carmen, è non farsi prendere subito dalla foga di voler vedere, magari si compra la casa, si fa già il grande sacrificio, se si vuole anche che sia tutto molto bello e di grande comfort e qualità, non lasciarsi prendere appunto dalla fretta, e magari si può procrastinare anche nel tempo l'acquisto e quindi comprarsi qualcosa di bello legato magari al marchio italiano. Carmen, la ringrazio. Vorrei sentire anche Cinzia da Padova. Stamattina ho scelto tutte donne, così gli uomini imparano. Sto scherzando, naturalmente. Cinzia, ci racconti, poi vado e concludo con Andrea Cinosi, perché non lo saluta nessuno, peraltro questa mattina non vorrei che si offendesse. Sto scherzando. Cinzia, buongiorno. Buongiorno a voi, intanto mi piace, adoro Radio 24 in totalità. E allora, noi abbiamo preso un appartamento per nostra figlia e è stato arredato mettendo sia cose di design molto belle e sia cose dell'Ikea. cercando di fare in modo che questo connubio non suonasse, ovviamente. Ma sì, Cinzia, basti guardare anche le riviste di design, di arredamento, le contaminazioni sono all'ordine del giorno, insomma, possono convivere assolutamente molto bene, come dire, pezzi di design, magari dei nomi più noti e più rinomati, insieme anche a IKEA o ad altri nomi, appunto, dell'arredamento low cost, chiamiamolo così, no? Quindi, Cinzia, sua figlia è contenta? Quanto ha speso? Cosa solo soltanto. Mia nipote, che vive negli Stati Uniti, ha voluto fortemente una cucina italiana, ha speso tanto quanto un appartamento in Italia ed è contentissima. Oh, ecco, l'importante è appunto che l'investimento fatto sia assolutamente in linea anche con le nostre esigenze, non solo economiche ma anche emotive. Cinosi, concludo con lei, poi devo andare alla pillola IMSS. La casa economica nei vostri, come dire, nelle vostre analisi qual è? Perché so che ne avete studiata una anche legata alla prefabbricazione, ma adesso, prima di andare verso questa come dire, evoluzione anche in Italia, che tipo di suggerimento per concludere possiamo dare ai nostri ascoltatori per fare, insomma, un acquisto in linea con budget e gusti? Sì, assolutamente. Beh, come diceva l'ascoltatrice di prima, oggi diventa importante anche saper scegliere dei mix che ci consentano quindi di arredare la casa con gusto, con qualità, ecco, però senza arrivare a spendere delle cifre che oggi diventerebbero proibitive. Diciamo, per quanto riguarda la casa del futuro, probabilmente sarà una casa più economica, nel senso che se oggi pensiamo quanto grava sulle famiglie il costo o dell'affitto o del mutuo, possiamo già immaginare quanto invece avrebbero di più a disposizione da destinare ai consumi e alle varie spese. Lo so. Ecco, qua potremmo oggi aprire una parentesi interminabile. Io devo interrompervi perché abbiamo le pillole curate in collaborazione con l'INPS per spiegarvi l'ultima riforma delle pensioni, oggi la seconda pillola sulle novità che riguardano le donne. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con l'INPS. Perché è prevista una diversa età pensionabile per le dipendenti pubbliche e per quelle private? L'età pensionabile in passato era diversa per uomini e donne e per i diversi settori. Il processo di convergenza verso un'età uniforme è in corso da tempo. La riforma lo porta a compimento. In particolare, l'età pensionabile delle dipendenti pubbliche era già stata equiparata a quelle degli uomini 2 anni fa per effetto di una sentenza europea, mentre per le donne del settore privato e per le lavoratrici autonome era stato avviato un processo progressivo di equiparazione. La riforma Monti-Fornero accelera quel processo in modo da arrivare all'equiparazione tra uomini e donne di tutti i settori nel 2018. Salvadanaio termina qui, grazie ad Alberto Spinelli e Andrea Cinosi per essere stati con noi. Noi ci risentiamo stasera anche a Focus Economia, domani invece saremo in diretta da un altro salone, dal Salone del Risparmio da Milano. Buona giornata a tutti.